ringrazio molto i nostri interlocutori di oggi, perché responsabilità, protagonismo del MIT innanzitutto vuol dire informazione, vuol dire voler sapere per essere protagonisti. Tanto detto, si può essere di fronte a questi cambiamenti, a questi fenomeni che in molti casi, nella maggior parte dei casi, ci superano, semplicemente passivi. Something.